2024 di Enrico Pagliarini. Molti di voi sanno che in Silicon Valley, in modo particolare, negli Stati Uniti direi in modo particolare, i progetti dedicati all'auto che guida da sola attirano fiumi di denaro. Ci sono veramente investimenti incredibili. Non solo americani, sono molti cinesi che investono in Silicon Valley proprio per raggiungere, per far crescere questo set di tecnologie che porteranno all'auto a guida autonoma. Intel, che è il numero uno al mondo nel settore dei processori, ovviamente non vuole perdere questa partita perché le auto dei prossimi anni saranno sempre più piene di sistemi computerizzati che richiedono chip e sensori di ogni tipo, e quindi se tu produci sensoristica o comunque processori, beh, tutto ciò creerà un business miliardario. E anche perché Intel, lo sapete molto bene, ha perso soprattutto una partita degli ultimi anni, quella degli smartphone. Dentro agli smartphone non ci sono, pressoché diciamo nel 99% dei casi, non ci sono processori Intel. Intel rimane comunque un'azienda fortissima e che va benissimo, che continua a generare utili fantastici in tutto il resto del mondo informatico, ma nel settore della mobilità i processori basati invece sull'architettura ARM di vari produttori hanno avuto la meglio per tutta una serie di ragioni, soprattutto di risparmio energetico, cioè di capacità di risparmiare energia. Allora, ovviamente di fronte a questo business colossale che si preannuncia attorno alle automobili a guida autonoma, non bisogna lasciarsi perdere questa partita. Per questo motivo Intel a inizio settimana ha annunciato che ha deciso di pagare, pensate, una cifra molto alta, che è di 15,3 miliardi di dollari, per mettere le mani sulla israeliana Mobileye, che è un'azienda nel settore molto conosciuta, è la più importante azienda specializzata in guida autonoma, fornisce già oggi sistemi anticollisione e vari sistemi a 25 case automobilistiche, circa 25 case automobilistiche, ha una quota di mercato in questo specifico settore del 70%. Ricordiamo che Mobileye sviluppa software, videocamere e altri sensori e fornisce di fatto quelli che potremmo definire gli occhi elettronici delle auto senza autista. Ma già oggi, senza arrivare all'auto che guida da sola, molte automobili sono dotate di una serie di sensori, anche videocamere, per evitare ad esempio di tamponare il veicolo che ci precede. Tra l'altro questa è l'acquisizione più ricca di sempre per un'azienda israeliana, non è un annuncio di tutti i giorni acquisire un'azienda per oltre 15 miliardi di dollari, e non è un caso che questa scelta sia stata fatta da Intel, che in Israele, pensate, dà lavoro a 10.000 persone ed è l'azienda high-tech con la presenza maggiore nel paese. 10.000 persone, per la stragrande maggioranza ricercatori, in un'area del mondo che viene ritenuta un'eccellenza soprattutto in alcuni settori, ad esempio quello della guida autonoma, ma sulla security, sulla cyber security, sul fintech, le tecnologie legate alla finanza, ecco, in questi settori Israele è una nazione emergente e molte delle aziende, molte delle startup hanno fornito o forniscono tecnologia a molte aziende nel mondo. E comunque una conferma del fatto che c'è molta fibrillazione nel settore della guida autonoma. Pochi giorni dopo, poche ore dopo potremmo dire, Bosch ed Nvidia produce processori grafici e su molte piattaforme già oggi disponibili sulle automobili di oggi ci sono chip di Nvidia. Allora, Bosch ed Nvidia hanno annunciato una collaborazione proprio per sviluppare sistemi di auto a guida autonoma. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da un paio di notizie che riguardano l'Italia. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un bando per assegnare frequenze in 5 città italiane per iniziare la sperimentazione dei servizi 5G. Molti di voi sanno che il 5G è l'evoluzione del 4G per la telefonia mobile, ma è molto di più di una evoluzione, perché è una tecnologia pensata soprattutto per la Internet degli oggetti. con grandi capacità di banda, ma anche grandi capacità di connettere molti oggetti con grande densità, quindi ad una cella di telefonia mobile saranno connessi addirittura milioni di oggetti, ovviamente fra qualche anno. Allora, entro il prossimo giugno verranno selezionate le aziende che vorranno fare sperimentazione nelle città di Milano, Prato, L'Aquila, Bari e Matera. Ci sono vari motivi per cui sono state scelte queste città. La sperimentazione durerà fino al 2020. Quindi quando a giugno sapremo quali sono le aziende che sono state selezionate, magari le intervisteremo, se si fanno intervistare, per raccontare che cosa faranno durante questa sperimentazione, che durerà appunto per i prossimi 2 anni e mezzo. Io immagino che i cittadini di queste città verranno coinvolte magari per sperimentazione, o comunque in alcuni momenti verranno mostrati i vantaggi della tecnologia 5G. Nel maggio del 2015 avevamo intervistato, e potete andare a riascoltare questa intervista, avevo intervistato Mirko Lalli, che è fondatore di Travel Appeal. La società ha annunciato un nuovo finanziamento da poco più di 700.000 euro. Allora, è un finanziamento non elevatissimo, ma se lo misuriamo con i finanziamenti che girano per le start-up italiane, comunque è un buon finanziamento. Travel Appeal analizza in tempo reale i dati online nel settore turismo attraverso sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il posizionamento online e la reputazione digitale degli operatori. In modo particolare questi sistemi si rivolgono, questo servizio si rivolge agli albergatori. Nella seconda metà del 2017 dovremo vedere anche in Italia, almeno le notizie che ho messo insieme in questi giorni mi dicono che dovremo vedere anche in Italia l'arrivo di nuovi sistemi di pagamento mobile. Da un po' che se ne parla, ma quest'anno dovrebbe essere l'anno buono, a partire da Apple Pay, che dovrebbe iniziare ad essere operativo in Italia tra maggio e giugno. Poi vedremo, magari ci sarà un'accelerazione. Una delle minacce ai tradizionali circuiti di pagamento arriva dai cosiddetti over the top: Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, insomma aggiungete quello che volete. Allora, una delle ultime notizie che riguarda questo mondo dei sistemi di pagamento forniti da questi player, allora, da pochi giorni tramite l'applicazione Gmail, quindi la posta elettronica di Google, che è piuttosto diffusa, su Android, quindi su smartphone, per il momento solo negli Stati Uniti, è possibile trasferire denaro ad un'altra persona. Il sistema ovviamente è collegato al Google Wallet, però è un'altra notizia che ci dice che queste aziende stanno cominciando a guardare a questo mondo, quindi non c'è solo Apple Pay, Google Wallet e Samsung Pay, insomma ci sono vari movimenti. Recentemente anche Facebook ha annunciato l'entrata in questo mercato, e quindi immagino che il futuro sarà ricco di notizie. Un'ultima notizia riguarda un tema di cui tra l'altro parleremo in questa puntata di 2024. Tra poco parleremo di batterie, di carica batterie e di ricarica wireless, con alcuni consigli per l'uso, il buon uso delle batterie dei nostri smartphone. Allora, giusto per capire in che direzione stiamo andando, Sony ha brevettato un sistema di ricarica e trasferimento dati wireless, senza fili, da uno smartphone all'altro. E sulla ricarica wireless, di ricarica wireless parleremo ampiamente, ma questa è una direzione verso la quale si sta andando, perché sono vari segnali che ci dicono che il futuro sarà sempre meno ricco di cavi, sempre più wireless, senza fili. Dunque, immaginate di andare dal dentista. Allora, si spera di non andare dal dentista se non a fare la pulizia dei denti, ma ogni tanto succede che bisogna fare manutenzione straordinaria ai nostri denti. Immaginate di dover rifare 1, 2, 3 denti. No, di solito si va, magari si prende l'impronta, adesso io non sono un esperto, quindi magari dico qualcosa che non è esattamente corretto. E poi bisogna tornare, bisogna che il tecnico crei il dente, lo si prova, eccetera, eccetera. Cioè, immaginate di fare tutto in una seduta. E questo grazie alla stampa 3D. Allora, parliamo anche di questo, ma approfittiamo per parlare anche di stampa 3D in generale con Maurizio Costa Beber, che è il direttore generale di DWS, che è un'azienda che produce prodotti eccezionali in questo settore, un'azienda italiana leader nel mondo in questo settore, che lancia tra l'altro per prima al mondo questo sistema per produrre in pochi minuti denti artificiali. Maurizio Costa Beber, benvenuto a 2024. Grazie. Voi siete un'azienda italiana che produce tecnologie additive per la stampa 3D, però spieghiamo un po' di cosa stiamo parlando, perché quando parliamo di stampa 3D parliamo di alcune tecnologie che già da tempo vengono utilizzate nel mondo dell'industria. Sì, allora nel caso di DWS abbiamo una tecnologia che abbiamo sviluppato circa 25 anni fa, si chiama stereolitografia, consiste sull'utilizzo di materie liquide che vengono solidificate da un raggio laser per ottenere poi l'oggetto finale che è stato precedentemente disegnato con un computer. Sì, c'è una sorta di piatto con questa materia liquida, c'è un laser che fa tanti passaggi e questa materia si solidifica e comincia a creare il pezzo. Esattamente. Tra l'altro io, quando ho visto qualche anno fa per la prima volta la vostra tecnologia, la cosa che mi ha stupito, ma veramente sono rimasto a bocca aperta, è la qualità del prodotto, perché l'altro tipo di tecnologia, forse quello più famoso, non so se si chiama ad estrusione, è quella di cui si parla più spesso e forse quella che ha creato questa sorta di bolla relativa alla stampa 3D. Che altra tecnologia esiste oltre alla vostra? Sì, allora la stereolitografia, che è la tecnologia che utilizziamo noi, è stata la prima alla fine degli anni 80. Dopodiché sono subentrate altre tecnologie, per esempio la solidificazione di polveri oppure l'estrusione appunto di filamento caldo. Quello che è diventato più popolare anche tra i makers. Sì, dovuto principalmente alla semplicità di utilizzo e al basso costo della stampante. Certo. Questo fino a poco tempo fa. Noi avevamo già intrapreso la strada di ottenere una macchina per stereolitografia a basso costo già molti anni fa. Nel 97 abbiamo presentato quella che è stata poi la prima stampante 3D da tavolo, la prima stampante 3D personal. Cioè, con la vostra tecnologia, con la stereolitografia. Sì, esatto. Però poi definitivamente 2 anni fa abbiamo presentato una stampante che ha, diciamo, dei costi simili alle macchine ad estrusione, quindi accessibile a chiunque, ma con tutti i vantaggi appunto della tecnologia di stereolitografia. Quando parliamo di costi simili parliamo di alcune migliaia di euro. Esatto, sì. Noi, o di dollari, visto che voi vendete prevalentemente nel mondo. Sì, siamo tuttora circa 5.000 euro o dollari, a seconda della nazione. Sì. Per le nostre macchine d'ingresso. Certo, stiamo parlando, lo dico perché poi alcuni potrebbero dire: ah, ma questi sono un sacco di soldi, ci sono stampanti 3D da poche centinaia di euro o mille euro. Stiamo parlando di macchine di qualità professionale, cioè di ottima qualità, quindi sì, vanno paragonate con quel tipo di macchina. Sì, di fatto quella che noi appunto consideriamo la fascia d'ingresso è di fatto una fascia prosumer, quindi un professionale, ha un costo vicino al consumer, quindi con delle caratteristiche assolutamente paragonabili a macchine molto molto più costose. Certo. Allora, c'è un motivo particolare per cui io ti ho invitato oggi, perché da forse più di un anno tu mi avevi anticipato, più di un anno, però diciamo l'ultima volta che ci siamo visti tu mi hai detto: stiamo lavorando ad un prodotto eccezionale. Io ti ho detto: guarda, visto che tu mi hai spiegato, mi avevi già fatto vedere alcune anticipazioni, ho detto: quando questo prodotto sarà pronto vieni che ne parliamo, perché secondo me è un'innovazione molto, molto importante. Di cosa stiamo parlando? Che cosa presenterete? Che cosa lancerete sul mercato la prossima settimana? Allora, è un prodotto che abbiamo iniziato a studiare 5 anni fa con un obiettivo tanto semplice quanto complesso, cioè di stampare restauri dentali. Stampare i denti? Esatto, stampare i denti. E abbiamo utilizzato parzialmente la tecnologia che avevamo già sviluppato per gli altri prodotti, con poi delle innovazioni che ci hanno permesso di ottenere un oggetto unico che verrà appunto presentato la prossima settimana su un evento europeo. Sì. E si tratta appunto di una stampante che per la prima volta verrà utilizzata direttamente nello studio dentistico, quindi dal dentista, dal dottore. E voi dite, è la cosa sorprendente, che in una seduta si fa il lavoro che si fa invece normalmente oggi in varie sedute, cioè in una seduta, poi lo traduco in pochi secondi, poi tu ci spieghi per bene come funziona. Il dentista ci scannerizza la bocca, quindi prende l'impronta del nostro dente, la infila nella vostra macchina, in 15-20 minuti stampa i denti e poi viene fatta l'applicazione in bocca. Esatto. Che è incredibile. Sì, è questa, diciamo, la prima innovazione. E appunto grazie alla velocità, non solo alla velocità, dicevamo appunto fra 11 e 17 minuti questa stampante riesce a riprodurre un restauro fino a 5 elementi, quindi 5 denti diciamo in sequenza, e lo fa però con un'ulteriore innovazione unica nel suo genere, rigenerando la colorazione naturale del dente. Quindi si ottiene un oggetto che ha esattamente lo stesso colore. Lo stesso del colore, dente, esatto, sì, la corrispondenza, e quindi non c'è questa differenza molto visibile antiestetica che si può notare in alcuni restauri. La tecnologia è la stessa, cioè sempre stereolitografia, con che materiale di partenza? Se è comprensibile il materiale, perché a volte ci sono dei materiali che uno dice vabbè. Ed è un materiale che abbiamo inventato noi, ci è voluto molto tempo anche perché oltre alle problematiche diciamo delle prestazioni fisiche, quindi della durezza, dell'estetica, della funzionalità, della durata, dovevamo anche rispettare gli standard qualitativi e certificazioni internazionali che hanno richiesto un investimento cospicuo e soprattutto molto tempo, quindi ci abbiamo lavorato per degli anni. Però adesso questo materiale ufficiale è pronto ed è appunto sviluppato specificatamente per questa applicazione. E tu confermi che in una seduta io, se ho un problema al dente, devo magari appunto ricostruire un dente, fare un restauro dentale, vado e torno con i miei denti nuovi? Assolutamente. Questa cosa la fa direttamente il dentista? Sì. Quindi non si deve più rivolgere all'odonto tecnico? Allora, due modalità. Può farlo il dentista, se ne ha il tempo, o l'assistente. Ed è per questo che la macchina che abbiamo dedicato a questa applicazione è molto semplice da utilizzare, non richiede un corso di addestramento molto lineare, quindi può essere utilizzato veramente al volo, durante la seduta con il paziente nella poltrona. Ma esiste anche una versione diciamo da tavolo, con esattamente le stesse funzionalità, che può essere utilizzato anche dall'odontotecnico, perché comunque ci sono delle necessità, però anche gli odontotecnici devono tenere conto di questa innovazione, quindi pensare a come si trasforma il loro lavoro, come si trasformerà. In generale, quando parliamo di stampa 3D, è vero che fino a poco tempo fa non si faceva altro che parlare di stampa 3D, un po' come oggi quando si parla di intelligenza artificiale. Adesso un convegno su due è dedicato all'intelligenza artificiale. Secondo te abbiamo un po' esagerato prima con questa euforia attorno alla stampa 3D? Come si sta trasformando questo mercato? Allora, io che l'ho vissuto dall'inizio, quindi dall'inizio degli anni 90, ho visto con i miei occhi e ho anche vissuto un'eccessiva ondata di entusiasmo che si è conclusa non da molto. Quello che gli americani chiamano l'hype cycle, quindi questa bolla, diciamo, che a un certo punto comincia a scendere per poi stabilizzarsi per diventare una industry vera e propria. Sì, quindi già siamo, diciamo, nella fase calante di questa curva di euforia. Sì, sì. Ecco, quello che notiamo è che è sceso visibilmente il livello magari di informazione così un po' imprecisa, se vogliamo anche un po' fantasiosa, su applicazioni che in realtà non sono ancora mature e quindi ecco, secondo me quello che stiamo assistendo è una maturazione e a un inizio dell'applicazione della stampa 3D su scala industriale, quindi non solo per la produzione di oggetti singoli ma anche sulla produzione vera e propria. Cioè, quando tu dici che da tanti anni che voi vi occupate di questo, è vero, perché voi avete iniziato tanti anni fa nel mondo orafo, giusto? Sì, prima ancora del mondo orafo, io ho avuto la fortuna di partecipare a una piccola avventura imprenditoriale in Giappone. Con un'altra persona ho fondato una startup appunto in Giappone nel 91. E quindi ecco lì l'idea. Che si occupava di stampa 3D? Sì. Ah. Abbiamo fatto, come dicevo prima, la prima stampante 3D da tavolo. E in quegli anni l'idea che avevamo era di portare la stampa 3D sul tavolo di chiunque, ricercatore, professionista, eccetera. Non specifica su un particolare settore, ma veramente a livello universale. Dopodiché ci siamo rivolti, perché i tempi erano un po' prematuri, diciamo, perché questo accadesse, mancava anche tutto l'ecosistema e tutti i software e tutto quello che noi abbiamo adesso a disposizione. E appunto non avendo poi un successo immediato, ci siamo concentrati su una industria precisa che è stata appunto la produzione di gioielli. Di gioielli. Però è arrivata dopo. Sì, sì. E questa idea di portare la stampa 3D in ogni casa, come magari appunto voi negli anni 90 pensavate, speravate, e come molti altri dicevano e continuano a dire ancora oggi, secondo te ha delle chance o poche? Allora, io molto sinceramente sono sempre stato abbastanza perplesso sull'utilizzo della stampa 3D a livello domestico, per il fatto che non ne vedo un vantaggio effettivo. Non lo vedevo prima, non lo vedo adesso, e secondo me anche nel medio termine sarà molto difficile che convenga, che ci sia un vantaggio reale per stampare qualcosa in casa che non sia già reperibile, diciamo, in commercio. Sì. Quindi ecco, noi per stampa 3D per tutti intendevamo appunto non magari uso domestico, ma un utilizzo professionale, un utilizzo di ricerca, un utilizzo diciamo comunque tecnico. Certo, e l'evoluzione anche nelle fabbriche, oppure in, non so se ha senso quello che alcuni dicono, ci saranno dei centri, dei fab lab, non so come chiamarli, magari in una città media o in una grande città o addirittura anche in un paese, dove tu potrai andare a rivolgerti, un po' come una volta si andava dal fotografo e uno andrà, dice, mi stampi, che ne so, il portachiavi che l'ho perso, oppure non so, io ho un microfono, dico, mi stampi il microfono, non lo faccio io a casa ma lo faccio in un centro specializzato. Sì, allora queste in realtà esistono già da molti anni. Sotto varie forme, sia a livello industriale che anche a livello, diciamo, un po' più amatoriale, se vogliamo, locale. Però nella gran parte dei casi si tratta di produzione di oggetti singoli, sostanzialmente di prototipi. Adesso abbiamo un nuovo trend, che peraltro noi abbiamo già sperimentato da una decina d'anni, anche sotto la guida di Industria 4.0, sull'applicazione appunto delle tecniche di stampa 3D alla produzione reale di oggetti, quindi alla produzione in serie. Quindi non più solo prototipazione, ma produzione. Esatto, produzione. Quindi la stampa 3D come tecnica additiva alternativa alle tecnologie manifatturiere convenzionali. E già oggi conviene per alcuni tipi di produzione? Allora, abbiamo già, come dicevo prima, da una decina d'anni, dei comparti industriali, dei clienti sparsi in tutto il mondo, che già usano le nostre macchine per produrre in serie tutta la loro produzione. Quindi questo non è una novità, non è un qualcosa in divenire, ma è un qualcosa che è già maturo, anche se magari non è noto, perché la maggior parte di queste aziende tendono a non, diciamo, a non dirlo, a non pubblicizzarlo troppo. Però ecco, abbiamo maturato sufficiente esperienza per avere già delle casistiche importanti, non solo in un unico settore industriale, ma in più settori con caratteristiche anche molto diverse. Senti, ma la stereolitografia, quindi la stampa 3D con questa tecnologia che voi avete sviluppato, da che materiali parte e quindi che tipo di prodotti possono essere fatti? Il principio della stereolitografia si basa su un materiale originalmente allo stato liquido, che viene poi solidificato da un raggio laser. Allora, questi materiali liquidi all'inizio, molti anni fa, erano resine. Poi, con l'andare degli anni, abbiamo sviluppato numerose varianti. Ad oggi abbiamo oltre 70 materiali, tutti sviluppati e prodotti da noi, che spaziano dalle materie plastiche alle nanoceramiche, materiali compositi, elastomeri, materiali biocompatibili. Quindi abbiamo uno spettro di applicazioni molto ampio, che tra l'altro si amplia continuamente perché abbiamo un trend di sviluppo di 4-5 materiali nuovi all'anno. Ah. Quindi è un continuo allargarsi di applicazioni. Senti, parlando di denti, cioè di stampante che stampa e fa i denti, siete gli unici al mondo, i primi al mondo a fare questa innovazione. Al momento, da quello che ci risulta, gli unici ad avere, perfetto, a presentare, per quello che sappiamo, una macchina con queste caratteristiche. Ma nella stereolitografia no, ci sono altre aziende nel mondo. Beh, certamente. Cioè, il mercato com'è? È un mercato ricco di competitor o non tantissimi? Abbiamo molti competitors. Abbiamo due o tre competitors storici con le loro, diciamo, tecnologie, con le loro prerogative, e poi ci sono molte aziende, piccole start-up che appunto stanno cercando di entrare anche in questo settore, anche con idee molto valide, per cui è un'applicazione che si sta popolando di nuovi attori. Certo. Senti, volevo farti una domanda anche sulla produzione di queste macchine. Le stampanti come vengono prodotte? Con delle altre stampanti, sai che c'è chi dice che la stampa 3D sarà in grado di autoriprodursi da sola? Sì, altro mito da sfatare, secondo me, almeno a breve medio termine, non vedo personalmente la possibilità che accada realmente. Quindi più che altro per la fabbrica, sì, la produzione delle stampanti 3D è fatta alla vecchia maniera. Da persone. 3D. Ci sono, okay, persone, ah, persone, non robot, ci sono delle persone, sì, che assemblano i componenti anche prodotti in stampa 3D. Noi ci avvaliamo, in alcuni casi sono prodotti in stampa 3D. Sì, okay, ci avvaliamo delle nostre stampanti soprattutto nella fase di sviluppo di prodotto prototipale, quindi per produrre il prototipo o per testare, diciamo, congegni sperimentali o idee molto innovative che con le tecniche convenzionali ci metteremo troppo tempo. Quindi le stampiamo direttamente, le proviamo, in alcuni casi vanno anche in produzione per un breve periodo di tempo, dopodiché quando raggiungono un certo livello di quantità si decide magari di passare con una tecnologia manifatturiera più convenzionale, più, sì, adeguata, sì, al, sì, volume. Però è un trend comunque che si sta diffondendo, perché citavo prima Industria 4.0 e ci sono già non solo le premesse, ci sono già dei casi reali in cui si producono beni di consumo, anche industriali, o parti di beni di consumo direttamente in stampa 3D. Quindi, certo, è una realtà. Possiamo fare degli esempi o non si possono fare per... Beh, solo a livello di applicazione, senza citare la fonte, certamente sì. Il settore, per esempio, dell'industrial design, ci sono molti oggetti, mi vengono in mente particolari lampade di design molto ricercate, ma anche molto complesse, troppo complesse per essere prodotte in maniera economica, che sono prodotte in stampa 3D. Ci sono prodotti elettronici, elettronica di consumo, mi vengono in mente auricolari fatti su misura per il cliente, quindi molto più comodi che non auricolari standard. Ci sono tutta una serie di applicazioni, occhiali per esempio. Abbiamo dei casi molto interessanti di produzione di grandi volumi di occhiali, però personalizzati, quindi si riesce a produrre quello che serve nel momento che serve, senza diciamo accrescere gli stock di magazzino, quindi vendendo quello che realmente viene richiesto. Certo, certo. Visto che abbiamo toccato il tema, sì, tu credi poco che nel giro di pochi anni le aziende siano piene di robot sempre più capaci, sempre più intelligenti, perché il giro di boa è dovuto soprattutto alla capacità dell'intelligenza artificiale di essere sempre più smart, quindi di creare fabbriche veramente intelligenti? Allora, abbiamo già degli esempi, secondo me l'industria manifatturiera, nello specifico automobilistica, già usa da molti decenni i robot. E lì vediamo tutti i vantaggi e gli svantaggi. I vantaggi sono chiaramente la velocità, la precisione, la ripetibilità. Gli svantaggi sono l'estrema complessità di mettere assieme una linea di produzione robotizzata, i costi e in qualche misura anche la scarsa flessibilità, cioè riattrezzare la linea produttiva con dei robot non è sicuramente agevole come impartire, che so, delle istruzioni a delle persone. Poi ci sono... se ci mettiamo qualche stampante 3D, sì, diventiamo più flessibili, no? Sì. Io non sarei così, diciamo, estremista, ma a me piace pensare che ci sia un'ibridazione di tecnologie. Tanto quanto possiamo avere un sistema produttivo ibrido fra persone e robots, possiamo anche pensare di avere sistemi produttivi che siano tecniche convenzionali e magari stampa 3D. Cioè, spiega? Quello che stiamo magari provando in questi tempi, stiamo cercando non solo di ottenere direttamente l'oggetto finale con la stampa 3D, ma di essere d'ausilio alla produzione convenzionale. Per esempio, a produrre delle attrezzature in stampa 3D per andare in produzione più velocemente o più economicamente. Particolari stampi, per esempio, che richiedono molti mesi per essere preparati e investimenti cospicui, possiamo farli in poche ore con le nostre stampanti e permettere a questo produttore di entrare subito nel mercato. Quindi si verificano tutta una serie di vantaggi che sostanzialmente accelerano il lead time, cioè la disponibilità del prodotto nel mercato. Bene, io ti ringrazio Maurizio per essere tornato a trovarci, per aver annunciato anche questa novità che entrerà sul mercato. Voi la presentate la prossima settimana e la cominciate già a vendere? Cioè, se un dentista è interessato, gliela vendete? Sì, potrà già ordinarla la prossima settimana con tempi di consegna che probabilmente inizieranno verso giugno-luglio di quest'anno. Certo, fate un po' come l'Apple, cioè che... c'è la richiesta è talmente elevata per cui c'è sempre un po' di attesa. Ma quanto tempo ci vuole per produrre una macchina del genere? Beh, se è un segreto industriale. No. Ma diciamo che il tempo di attraversamento per una macchina così non credo superi i 2 giorni. Però questo chiaramente nell'ottica di una produzione in serie, ovviamente non ne produciamo una alla volta, ma un lavoro sequenziale che permette di produrne un quantitativo adeguato a seconda della richiesta. Anche noi cerchiamo di rendere snella la nostra produzione. Certo. Grazie. È un piacere. Buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie mille, arrivederci. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, l'indirizzo di posta elettronica che potete utilizzare per raggiungermi è 2024@radio24.it, potete trovarmi anche su Facebook e su Twitter. Tutte le interviste che ascoltate durante 2024 sono disponibili in versione integrale nell'edizione podcast del nostro programma. Andate sul nostro sito internet oppure molto più semplicemente utilizzando la nostra app su smartphone o anche le tante applicazioni che esistono per la gestione del podcast. Molto facilmente cercate 2024, vi abbonate, scaricate o ascoltate in streaming la nostra puntata che è molto più lunga rispetto a quella che sentite in onda. Il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30. Dunque adesso ci occupiamo del problema dei problemi, la durata delle batterie sul nostro smartphone, come si mantiene in buono stato una batteria, come si ricarica una batteria. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentornati ascoltatori. Recentemente, dopo il Mobile World Congress di Barcellona, ci siamo scambiati alcuni messaggi. Devo dire che in quel caso non ci siamo scambiati messaggi vocali, cioè non ci siamo telefonati, no. Ma via Twitter ci siamo detti, ma insomma di grandissime novità non ce ne sono state e tu giustamente commentavi la novità che attendiamo da tempo è una ricarica che possa andare avanti qualche giorno, una settimana, e lì sarebbe veramente il punto di svolta degli smartphone. E quello farebbe cambiare veramente tutte le regole del gioco, o meglio, costringerebbe chiunque a spingersi verso un cambio di apparecchio anche abbastanza rapido. Se ci fosse una batteria di uno smartphone che dura una settimana o anche di più, è chiaro che saremmo molto più liberi sia dalla ricarica di notte, cioè mentre dormiamo, ma anche dalle ricariche, come giustamente dicevi, durante la giornata, che oramai sono sempre più frequenti, sia che si facciano con battery pack, sia che si facciano con alimentatori in macchina durante gli spostamenti o addirittura in ufficio. Sono molti, sì, che ormai hanno alimentatore cavetto sulla scrivania. Esatto. Tu hai già citato uno strumento, un elemento di cui parleremo tra poco, i battery pack, chiamati anche power bank, ma sono sempre termini all'inglese. Batterie supplementari sono quelle batterie che possiamo collegare al nostro smartphone o ad altri strumenti, non solo allo smartphone, per ricaricarli mentre siamo in movimento, comunque siamo lontani da una presa di corrente. Finora uno dei modi, uno dei metodi per cercare di risparmiare batteria è cercare di fare strumenti, se utilizziamo lo smartphone come elemento principale, cercare di fare processori che consumano meno, cioè far consumare meno lo strumento, perché le batterie grosso modo non hanno visto grandi sviluppi. Però noi in questa puntata vorremmo anche dare dei consigli su come usare bene la batteria, sfatando anche alcune leggende, oppure confermandole alcune leggende. Ad esempio, ti faccio subito una domanda. La famosa leggenda che dice che bisogna scaricare completamente la batteria e ricaricarla completamente, cioè fare cicli di carica e scarica completi, è vera oppure fa male al telefono? No, è assolutamente falso, o meglio è un retaggio di vecchie tecnologie di batterie ben diverse dalle batterie agli ioni di litio che sono adesso su praticamente tutti i device. Al contrario, una batteria in queste tecnologie, diciamo attuale, che vada sotto un certo livello di carica diventa praticamente inservibile, si guasta per sempre. Ovviamente non ci va mai nell'utilizzo normale, perché c'è un sistema di controllo all'interno dei device che praticamente spegne il telefono, se parliamo di smartphone, quando il livello di carica va vicino ai livelli di sicurezza, quindi praticamente mette al sicuro la batteria. Ma se per caso questo controllo non ci fosse, la batteria sarebbe inservibile. Quindi non è assolutamente vero che va scaricata completamente, non è assolutamente vero che si usura di più se viene caricata quando è a metà carica, anzi cicli di carica brevi e di scarica brevi sono quelli che garantiscono la migliore durata della batteria, e quindi la batteria andrebbe possibilmente ricaricata sovente, tenuta sempre bella carica. Beh sì, non è un caso che quando apriamo uno smartphone nuovo, un celofanato, l'apparecchio sia già carico. Non è soltanto per favorire la prima installazione da parte dell'utente, che così non deve metterlo sotto carica e può subito infilare la SIM e usare il nuovo telefono, ma è anche perché le batterie al litio si conservano bene quando sono cariche, non quando sono scariche. Quindi vengono caricate, precaricate in fabbrica, perché possono viaggiare sane, no? Sì. Poi devo dire, una delle caratteristiche di questa tecnologia è quella che poi la carica, quando l'apparecchio non è utilizzato, viene mantenuta bene, cioè il decadimento della carica è molto molto lento, quindi una batteria carica poi resta tale, no? Quindi il consiglio poi anche, per esempio, per gli apparecchi che non usiamo sovente, per i muletti, il secondo smartphone che teniamo lì, quello vecchio, in caso di guasto del nostro smartphone principale, ecco, questo ogni tanto, intanto va messo via carico e non scarico, e poi ogni tanto magari fargli una bella ricarica aiuta a mantenere la batteria viva. Questo è molto interessante. Caldo o freddo? Caldo freddo, ecco, le batterie sono, soprattutto quelle agli ioni di litio, sono un po' come noi umani. Hanno delle temperature di comfort che sono tutto sommato simili alle nostre, soprattutto soffrono il caldo. Il caldo fa diciamo decrementare la vita della batteria in maniera importante, mm-hmm, fino anche al guasto, motivo per cui alcuni apparecchi, per esempio lasciati al sole, hanno un controllo di temperatura per il quale a un certo punto si spengono proprio, cioè la batteria va in protezione e quindi l'apparecchio si autospegne, no? Ma non è un guasto, è semplicemente proprio una protezione della batteria, quindi attenzione al calore, sia quello generato dall'apparecchio stesso. Alcuni apparecchi con processori magari un pochino più importanti scaldavano molto, adesso si sta più attenti a questo aspetto, e scaldando tutto l'apparecchio di fatto scaldava anche la batteria. Alcuni ovviamente, se lasciati per esempio sul parabrezza, sotto il parabrezza d'estate al sole, sì, in macchina, si scaldano moltissimo. Certo, pensate in spiaggia, quindi attenzione al caldo. Sempre coperto, tant'è vero che gli zainetti, quelli diciamo più vocati alla tecnologia, le borse, gli zainetti, hanno spesso un comparto che è diciamo foderato internamente in quei fogli diciamo di simile alluminio, ovviamente, sì, cose di questo tipo, per essere un pochino più a tenuta termica. Il freddo non danneggia la batteria, almeno entro certi limiti, però ne in qualche modo ne limita la capacità di restituire corrente. Quindi è vero che al freddo le batterie rendono un po' meno, non si guastano ma rendono meno, quindi è chiaro che se io vado a fare fotografia sulla neve e penso di farla per un giorno intero, è bene che io mi porti una batteria di ricambio, semplicemente anche se penso di fare meno foto di quelle che normalmente una carica mi concede, semplicemente perché quella carica a meno 10 gradi, a meno 5 gradi durerà meno, e quindi c'è bisogno di una batteria in più. Poi quando torna la temperatura ideale, nessun problema. Quindi abbiamo capito che dobbiamo tenere carico il nostro smartphone, quindi anche, Gianfranco, i cicli di ricarica non incidono molto sulla vita della batteria? Carica, scarica, carica, scarica, carica, eccetera. Allora, la vita della batteria viene definita normalmente con un numero di cicli per la quale questa batteria è certificata. Poi esistono batterie molto diverse anche come qualità, no? Per cui ci sono batterie che dopo 450 cicli ancora sono in grado di immagazzinare l'80% dell'energia massima totale per cui è stata progettata quella batteria, e batterie invece che sono già al 50%, ecco, quindi lì bisogna vedere. Però che cosa si intende per ciclo? E questa è la cosa importante, perché qualcuno pensa ogni volta che l'attacco al caricabatterie perdo un ciclo, anche se la tengo 5 minuti. No, non è così, per questo si possono fare anche cariche brevi senza danneggiare la batteria. Il ciclo è inteso come ciclo intero, cioè da una batteria completamente carica fino al suo scaricamento completo. Ovviamente se io faccio soltanto metà carica vale come mezzo ciclo, fatemi dire. Sì, sì, certo. Vale la pena in alcune occasioni scaricare completamente la batteria. Ovviamente non si scarica totalmente, perché abbiamo detto poi il telefono spegne la batteria. C'è un controllo automatico. Per questo qui serve soltanto, non per la batteria, ma serve per il sistema che all'interno del device controlla la batteria per fare la cosiddetta calibrazione. Cioè questo sistema ogni tanto deve sapere effettivamente qual è la capacità reale della batteria per poter gestire al meglio questi, appunto, intanto la percentuale che mi visualizza sul display. A un certo punto su batterie usurate magari io vedo 80-90%, poi mi volto per un attimo e sono al 42%, poi mi volto per un attimo e sono al 17%. Ecco, questo evidentemente è segno di un sistema di controllo della batteria che incomincia a non conoscere bene la batteria, oppure una batteria che è particolarmente usurata. Sì. Delle volte, prima di levarsi il dubbio che la batteria sia a fine vita o giù di lì, conviene fare un ciclo di carica e scarica fino a zero, lasciando spegnere proprio il telefono, quindi non rimettendolo in carica, per concedere al sistema di controllo della batteria di avere, come dire, il quadro completo della capacità della batteria. A quel punto, se ancora si verificano funzionamenti un po' pazzi come quelli che abbiamo descritto, beh, forse è il caso di valutare una sostituzione della batteria, che in alcuni casi è molto semplice perché la batteria è estraibile, in alcuni casi deve richiedere l'intervento d'assistenza. Ecco, e che cosa che comunque si può fare nei telefoni che sono sigillati? Si porta in assistenza? Sì, nessun telefono è veramente sigillato, ovviamente ci sono delle viti, ci sono dei sistemi di apertura, ci sono anche tanti tutorial su YouTube per fare per il fai da te. Però attenzione. Che però appunto che può essere è pericoloso perché non basta vedere un video per sapere bene dove mettere le mani, e in uno smartphone per esempio è tutto talmente miniaturizzato che basta schiacciare leggermente un cavo per rendere l'intero telefono inservibile, sì, sì, non sì. solo la batteria. Dunque, adesso passiamo all'altro mondo, quello della ricarica, e qui si apre veramente uno scenario molto vasto. Dobbiamo dire qualcos'altro, aggiungere qualcos'altro su consigli per un buon uso delle batterie, uso e manutenzione delle batterie? Ma forse fare due parole, perché se ne è parlato tanto nei mesi scorsi, sulle batterie che esplodono o cose di questo tipo. Allora, la batteria immagazzina tanta energia. Questa energia, se è convogliata correttamente, diventa energia che alimenta il telefono. Se qualcosa va storto, può anche essere diciamo convogliata in maniera errata, per esempio in una fiammata più che in un'esplosione vera e propria, o comunque in un rigonfiamento, in problemi alla batteria. Al di là dei problemi, come abbiamo detto, nel caso dei telefoni che di qualche mese fa, che poteva essere probabilmente, anzi è stato appurato, un difetto di produzione della batteria, allora lì tutto è possibile evidentemente. Nel buon uso non succede nulla, non esplode un telefono. La cosa veramente più importante a questo fine, come dicevamo, è quello di stare attenti alla temperatura. Un telefono, una batteria comunque al litio, sopra i 30 gradi già incomincia ad avere piccoli problemi, sì. che più la temperatura sale possono diventare grandi, sì. Ecco, tenerlo più al fresco è meglio. Ultima domanda, ma che ci introduce al tema della ricarica: tenere in carica il telefono per lunghe ore, anche dopo che si è caricato, crea problemi o c'è un sistema di controllo che decide quando... Allora, non solo non crea problemi, ma neanche consuma energia, come pensano alcuni, perché il sistema di controllo che è all'interno del device, che pilota la batteria, che non è elettricamente collegata alla corrente, così, cioè un microprocessore che lo controlla, quando stabilisce che la tensione ha raggiunto all'interno della batteria, cioè che l'energia, diciamo, più che la tensione, che l'energia immagazzinata ha raggiunto il livello per cui è stato programmato, sì. A quel punto interrompe automaticamente l'erogazione della corrente verso la batteria, e quindi la batteria non si ricarica più, o meno, meglio, se si dovesse scaricare un pochino, rinterviene per un attimo sì. la carica, ma si interrompe subito, quindi nessun problema a lasciare collegato il device. Saluto Igor Spinella, che è fondatore, nonché amministratore delegato, si dice anche CEO di Eggtronic. Benvenuto a 2024. Grazie a tutti. Diciamo subito che cosa fai e perché ti abbiamo invitato. Tu sei un esperto di ricarica in generale, di ricarica wireless in particolare. Voi avete ideato, tu e in Eggtronic avete ideato un hub per la ricarica wireless, dico bene, che cos'è? Sì, non solo, abbiamo tutta una vasta gamma, diciamo, di brevetti nell'ambito della ricarica e della ricarica wireless, e si sta andando sempre di più verso l'eliminazione del cavo. Abbiamo parlato finora di ricarica che è bene che sia distribuita nell'arco della giornata, fa bene alla batteria ma serve anche ad arrivare banalmente a fine giornata. La nostra idea è di fare in modo che sul tavolo, in ufficio, in casa, in cucina, in automobile ci siano ovunque degli spot di ricarica dove, appoggiando il telefonino, e non solo il telefonino, nel futuro qualunque device elettronico, questo riesca a ricaricarsi. Ecco, pian pianino stiamo riuscendo a sviluppare tutta una serie di prodotti che riescono a caricare senza fili i nostri device. Il vostro hub di ricarica wireless è già in commercio? Quello è stato il nostro primo prodotto, è stato il primo a essere commercializzato, ora in commercio ce ne sono molti altri, quindi spot di ricarica più o meno complicati, esteticamente dalle forme più o meno variegate, che riescono appunto a caricare senza fili qualunque device. Sì, sì, sono tutti in commercio. Secondo te quanto tempo ci vorrà, se poi avverrà questa cosa, per vedere strumenti, tutti gli strumenti con ricarico wireless, e quindi che diventi la normalità appoggiare su un hub tipo il vostro uno smartphone o qualsiasi altro oggetto perché si ricarichi? Allora, questa è una domanda in realtà complicata, nel senso che con la tecnologia che si usa oggi, che è quella che va per la maggiore, quella all'interno ad esempio dei telefonini Samsung e quella alla quale ha aderito qualche mese fa anche Apple, quindi che sembra che verrà adottata anche dall'iPhone, il condizionale è sempre d'obbligo quando si parla di Apple. Ecco, questa tecnologia qua permetterà di caricare molto bene telefonini e al limite tablet o comunque piccoli device, e la nostra previsione è che nel giro di qualche anno sarà il modo di ricarica prevalente in qualche anno. Invece per device di altro tipo, come ad esempio computer, televisori, comunque altri strumenti un po' più grandi, un po' energivori, servirà un salto generazionale e quindi prevediamo qualche anno in più con un cambio anche di tecnologia. Noi in laboratorio già lo facciamo, e però poi bisogna mettere un po' d'accordo tante multinazionali, quindi prima che diventino prodotti commerciali ci vuole un po' di tempo in più. Cioè, tu immagini addirittura che ci possa essere, che ne so, il nostro garage con dei sistemi wireless, e quando noi parcheggiamo l'automobile si ricarica wireless? Allora, questa è già un salto ancora in più, perché parliamo di un livello di energia ancora superiore, non lo si esclude, esistono già tutta una serie di prototipi, bisogna stare attenti a non sfociare in quella serie di annunci un po' sensazionalistici, perché si riesce, bisogna stare sempre molto attenti quando si parla di ricarica wireless all'efficienza energetica. Allora, se l'efficienza energetica è un pelo più bassa per il telefonino, e ormai siamo a livelli molto buoni, non succede niente, funziona tutto molto bene. Se lo si fa con l'automobile, parliamo tanto di eco, green, ecologia, e poi andiamo a buttare via un sacco di energia, perché il sistema di ricarica wireless di un'automobile, ad esempio, per la tecnologia che si usa oggi, è estremamente inefficiente. E quindi bisogna stare attenti. In ogni caso ci sono miglioramenti continui. Il corso dello sviluppo di questa tecnologia permette risultati sempre migliori. Gianfranco. Igor, sì, abbiamo letto anche in questi giorni, ma è una notizia che ricorre frequentemente, addirittura della stanza che ricaricherebbe qualsiasi device vi entra semplicemente wireless. Vorrei un commento competente da parte tua rispetto a questo tipo di notizie. Sì, allora, queste sono le notizie che periodicamente, perché è ciclica la cosa della notizia della stanza che ricarica tutto senza fili, escono fuori. È molto facile per un giornalista fare l'articolo sensazionalista quando ha una notizia del genere, poi sarebbe meglio indagare un pochettino di più tecnologicamente su che cosa vuol dire, perché sono notizie sostanzialmente di tecnologie che già Tesla, Nikola Tesla, quindi tanti anni fa, riusciva ad esempio ad accendere un neon messo al centro di una stanza senza fili. Ci si riesce, tecnologicamente non è nulla di particolarmente avanzato, c'è solo due piccoli problemi. Uno, l'efficienza energetica, cioè per far arrivare ad esempio un watt, quindi una ricarica lentissima ad un telefonino, se abbiamo a sparare energia in tutta la stanza uno scatolotto in un angolo di questa stanza, quello scatolotto deve sparare un migliaio di watt. Quindi pensate a quanta energia persa. Seconda cosa molto importante quando si parla di quel tipo di tecnologie è: in mezzo ci sono anche esseri umani, cani, gatti o comunque cose animate che si prendono una buona parte di quell'energia. E quindi, per esempio, qualche mese fa c'era stato l'annuncio di una compagnia abbastanza famosa nel mondo del wireless che aveva fatto questa clamorosa stanza che caricava tutto senza fili. Dopo pochi mesi ha ammesso che non sarebbe mai stato certificabile quel sistema, non sono sistemi sicuri. Certo, molto interessante. Adesso Gianfranco, torniamo, facciamo un passo indietro. Allora vorrei che assieme a Igor Spinella dessimo alcuni consigli ai nostri ascoltatori sul caricabatterie. Non so se è corretto chiamarlo carica batterie, perché magari scopriamo che si chiama in un altro modo, e poi parliamo anche di batterie supplementari chiamate power bank oppure battery pack, quelle batterie che io compro per alcuni euro, alcune decine di euro, e le posso collegare allo smartphone, che ne so, tenendole nello zainetto ad esempio. Allora, io uomo della strada, che cosa devo comprare per caricare in modo efficiente il mio smartphone, Gianfranco? Allora, stante che in ogni confezione di ogni device noi abbiamo il nostro alimentatore. E quindi questo è sicuramente pensato per alimentare correttamente quel device. Però abbiamo visto e sperimentiamo tutti i giorni che uno non basta, perché o dobbiamo portarcelo in giro tutto il giorno con noi, ma magari non è comodo perché quello che è a casa è sul comodino, lo lasciamo lì. Abbiamo bisogno di caricabatterie supplementari. Certo, quindi la prima cosa è comprarne uno uguale. Beh, allora, quello sicuramente non si sbaglia. Il problema è che quando guardiamo l'offerta che c'è sul mercato di prodotti di questo tipo, siamo di fronte a offerte molto differenti, soprattutto per quello che più conta, o meglio più conta per il consumatore, cioè il prezzo. Ci sono, mentre non so, su uno smartphone sappiamo che si va da smartphone di una certa classe, il prezzo può variare, parlo dei top di gamma, dai 500 agli 800, 900 euro, ma quello è l'ambito. Quando parlo di alimentatori ci sono prezzi che possono essere 4 volte, 5 volte, 6 volte più alti nei modelli più cari rispetto a quelli più economici. E apparentemente tutti hanno la loro bella uscita USB, tutti si propongono di caricare dei device e onestamente non ci sono elementi così chiari per il consumatore per capire innanzitutto se ci sono delle differenze, che differenze ci sono. Quando il consumatore non capisce che differenze ci sono, cosa compra? Quello che costa meno. È evidente. E magari dopodiché ha delle brutte sorprese, perché semplicemente il device non si carica, non si carica correttamente, si carica molto lentamente, oggi si carica, domani non si carica più. Cioè le fattispecie purtroppo che sperimentiamo sono molte. Comunque non si rovina. E chi l'ha detto? Ah. Potrebbe anche rovinarsi. Cioè il caricatore può rovinare lo smartphone? Un caricatore di scarsa qualità, e purtroppo sul mercato ce ne sono, potrebbe anche danneggiare lo smartphone, danneggiare in qualche modo anche, se vogliamo, la rete elettrica, non con danni diciamo gravi permanenti, ma comunque restituire alla rete elettrica dei disturbi, oppure ancora potrebbe semplicemente inquinare l'ambiente nel quale siamo più di quanto non sia dovuto. Però poi sentiamo anche Igor, ma banalmente Gianfranco, se io devo comprare un caricabatterie, che numeri devo guardare? Cioè per comprarlo che sia efficiente, che carichi velocemente il mio smartphone e che lo carichi bene? Dipende da che cosa devo caricare, evidentemente. Molte volte vengono indicati, anzi quasi sempre sugli alimentatori, la corrente che questi possono erogare. Questo anche sui battery pack. Abbiamo un battery pack con più porte, magari USB. Alcuni c'è scritto 1A che sta per 1 ampere, altri c'è scritto 2A che sta per 2 ampere, è la quantità di corrente erogabile dall'alimentatore, che non vuol dire che viene erogata sempre, dipende che cosa ci collego. Se ci collego un device che assorbe quel tipo di corrente più alta, bene, erogherà il tipo di corrente più alta. Questo significa che per esempio alcuni tablet si caricano, richiedono un po' più di corrente, e quindi a volte non vanno neanche in carica, parlo per esempio per alcuni iPad, con una corrente troppo bassa, semplicemente ti danno un bel segnale dove ti dice non in carica. E quindi non basta una presa USB qualsiasi, cioè una carica USB qualsiasi, serve che sia, diciamo, un pochino più generosa in corrente. In altri casi, se c'è corrente in più e il device è attrezzato per assorbirla, ecco, la carica sarà più veloce. Sì. Quindi un caricabatterie carica quel telefono in un'ora, un altro caricabatterie carica quel telefono in 3 ore. E uno si chiede, ma perché? Ecco, il motivo può essere per esempio questo. Poi comunque, ci sono anche diverse strategie di carica sulla carica rapida. Comunque diciamo, se io ho un telefono che accetta 2 ampere, se compro un caricatore da 2 ampere faccio una cosa giusta. Assolutamente sì. Perfetto. Assolutamente sì. Igor, vuoi aggiungere qualche consiglio? Sì, voglio aggiungere qualche consiglio sia sul discorso degli alimentatori di bassa qualità che possono creare problemi, sia sul discorso della carica rapida. Alimentatori di bassa qualità, guardate anche le certificazioni, chi spedisce l'oggetto. Oggi siamo abituati a comprare dai marketplace online, è normale, lo facciamo tutti ed è comodissimo, Stiamo attenti che se un prodotto è spedito direttamente dalla Cina con tempo di spedizione di 20 giorni da un piccolo produttore sconosciuto, tendenzialmente quello è un prodotto di bassa qualità, tendenzialmente. E così come se un prodotto non ha le certificazioni minime di legge e si vedono stampigliate sul caricabatterie, automaticamente quello è un prodotto di bassa qualità. Se un alimentatore pesa la metà di un altro, o siamo di fronte a una tecnologia rivoluzionaria, ma quelli sono i nostri brevetti, oppure banalmente ci mancano dei pezzi, ci mancano dei filtri, ci mancano tutte le cose che all'utente risultano trasparenti, ma sono tutte quelle protezioni delle quali parlava Gianfranco e che mettono al sicuro sia il nostro telefonino, sia la rete elettrica, sia l'utente che utilizza e che maneggia l'alimentatore. Quindi queste sono piccole accortezze per capire se un alimentatore, magari per il quale si è speso un euro e mezzo, è un pochettino troppo economico e quindi potrebbe dare qualche problemino. Questo per quanto riguarda la bontà degli alimentatori. Per quanto riguarda strategie, metodi di ricarica, ricarica rapida, la corrente, la tensione, eccetera, c'è tantissima confusione spesso. Ci sono appunto oggi sempre più metodi che permettono la ricarica rapida. Oggi l'alimentatore non è più solo un device in grado di erogare una certa tensione o una certa corrente, ma c'è una vera e propria comunicazione continua tra telefono e alimentatore, e con tantissime strategie di ricarica. Un alimentatore vecchio spesso non conosce le strategie di ricarica che invece il telefono permette. Allora gli alimentatori migliori dentro hanno un vero e proprio cervello elettronico, un microcontrollore, in grado di negoziare, discutere con il telefono finché non si mettono d'accordo letteralmente su qual è la migliore strategia di ricarica che permette una ricarica sicura e veloce. Molto interessante, e molto interessante anche la considerazione che Igor Spinella ha fatto sul peso, cioè la sensazione di robustezza di questo strumento, che può sembrare banale, ma invece al quale affidiamo a volte anche delle esigenze di lavoro, perché se abbiamo la carica che dura più tempo, o comunque se possiamo ricaricare più rapidamente il telefono, magari possiamo fare più velocemente una telefonata. Lo stesso vale anche per i battery pack, perché se c'è una cosa che è ancora un vincolo tecnologico è il peso della batteria, che tant'è vero che le prestazioni di una batteria, di una tecnologia, vengono indicate proprio con la capacità di magazzinare energia nel peso, al chilo. Quanta energia al chilo riesco a mettere in quella batteria? Questo è chiaro che diventa, per esempio, strategico, importantissimo, per esempio, per i veicoli elettrici. Perché i veicoli elettrici, certo, hanno bisogno di molta energia, ma questo significa portarsi dietro una grande zavorra in termini di peso, se si riuscisse a diminuire il peso, ma ancora purtroppo non ce la si fa. Quando io mi trovo di fronte a un battery pack che mi dichiara 10, 12.000, 15.000 mAh di energia, perché quella è l'unità di misura con la quale li valuto, e pesa metà di un altro battery pack che invece dichiara 8.000, qualche dubbio su come viene fatta quella dichiarazione, insomma, di capacità bisogna porsela, perché poi alla fine, come abbiamo visto negli anni d'oro dell'audio con i watt che venivano inventati in qualche modo sui sistemi audio, per cui c'erano sistemini minuscoli da 5.000 watt, che non era ovviamente possibile, allo stesso modo anche il modo di misurare la capacità della batteria può essere più o meno fantasioso, o addirittura totalmente fantasioso. Quindi il peso, in qualche modo, non dico che alimentatori e battery pack vanno comprati al chilo, ma è ancora una cosa che conta, come negli speaker conta ancora, per esempio, il volume dello speaker. Se io mi aspetto di avere bassissime frequenze da un cubetto di 5 cm per 5 e qualcuno me li promette, probabilmente sta dicendo una bugia, una mezza bugia, malgrado nuovi materiali consentano sempre di avere prestazioni un pochino migliori rispetto al passato, però non rivoluzionari. Ma non rivoluzionari, ecco. Quindi il volume conta, sì, il peso conta, i componenti contano e le prestazioni ne risentono. Certo, questo è quello della confusione sul mercato, è un problema di molti mercati. Io vorrei comprare una bella torcia e c'è una confusione pazzesca con dichiarazioni dei produttori le più varie. E quindi uno si domanda, ma questi dati come vengono sparati a volte in modo completamente casuale o comunque fuorviante? Io mi rendo conto che stiamo ponendo tanti temi sul tavolo e non dando tutte le soluzioni che un utente cercherebbe. Cioè, certo, sì. Sarebbe bello poter dire, voi andate in un negozio e scegliete l'alimentatore di classe Z, non lo so, un qualche certo, cosa. Ecco, invece non, non esiste una categorizzazione di questo tipo, a meno che Igor la conosca. No, infatti Igor, se un tuo amico ti domanda che caricatore devo comprare, che cosa gli consigli di fare? Allora, se non ci sono problemi di budget, la scelta migliore è di comprare una copia uno a uno, quindi un alimentatore prodotto dal produttore del proprio telefonino, che è la scelta sicuramente ideale per non fare errori. Ci sono altri 1000 prodotti sul mercato, compresi i nostri, perché in questo caso starei dicendo non comprate i nostri prodotti, che magari sono degli accessori altrettanto ben fatti e che permettono funzionalità diverse rispetto al banalissimo alimentatore originale. E quindi per questo motivo non si deve essere disincentivati dall'utilizzare anche prodotti non della casa costruttrice del proprio device. Quando si guardano quei prodotti lì serve un occhio di riguardo in più. Chi è il costruttore? Che certificazioni ci sono stampigliate su? C'è la classica CE con un marchio anche visivamente fasullo oppure c'è qualcosa di più? Per esempio ci sono certificazioni come UL, che anche lì si fa molto presto a verificare se è vera o falsa. Se c'è un numerino sotto, quel numerino dice tanto. Ci sono tanti modi per rendersi conto anche in modo visivo che un prodotto è di qualità o no. Anche sul power bank, il battery pack, la batteria di riserva, comunque la si voglia chiamare, oltre al tema dei milliampere ora un po' inventati, spesso appunto si trovano dei sistemi da 20.000 milliampere ora che uno dice ma è piccolissimo, come fa a starci tutta questa carica tutto sommato? Questa è una prima indicazione importante. Una seconda è dire che l'efficienza è importante, perché se io dico di avere una capacità grandissima ma poi il circuito di ricarica è fatto male, si scalda tanto, tutta quell'energia in realtà magari è anche immagazzinabile, ma io ne fruisco solo di una parte e magari quella parte è anche bassa, la uso al 50% perché il resto se ne va in calore perché il battery pack si scalda perché è fatto male, cose che succedono molto spesso. Anche lì ci sono metodi abbastanza empirici che aiutano, costruttori mai sentiti prima, forme un pochettino di dubbio gusto, certificazioni scritte sopra che si vede lontano un miglio che non sono certificazioni cui corrispondono prove fatte veramente da laboratori qualificati, tutto questo dovrebbe mettere in guardia il consumatore. Quick Charge è una certificazione, perché ad esempio Samsung utilizza questa tecnologia per una ricarica rapida. E lì ci sono tanti tipi diversi, ogni casa ha il suo nome commerciale di un mondo di ricarica rapida che si divide in due macrogruppi, Apple da un lato e tutti gli altri dall'altro, come al solito. Apple cosa fa? Lavora come ricarica rapida in corrente, quindi tiene i classici 5 volt e aumenta la corrente, quindi passa, prima un tempo c'era la ricarica 1 ampere, ora 2 ampere, 2 ampere 4 e cerca di salire con la corrente. Questo è come fa la ricarica rapida Apple, quindi l'alimentatore che è compatibile con l'iPhone deve accorgersi di avere a che fare con un iPhone ed essere in grado di erogare più ampere, quindi più corrente. Tutti gli altri usano la tensione invece, quindi aumentano i volt, da 5 volt passano a 9 volt, 12 volt, si sta arrivando verso i 18 volt, quindi lì l'alimentatore deve essere in grado di parlare col telefonino, ad esempio Samsung, ma non solo, e dargli la tensione che il telefonino si aspetta. Appunto, questa è una cosa estremamente critica, perché mentre per gli ampere c'è una limitazione automatica dentro il telefonino, se l'alimentatore sbaglia a dare la tensione, brucia il telefonino, letteralmente. E quindi cos'è la ricarica rapida, Quick Charge oppure il Fast Charge di Samsung? Quelli sono tutti nomi commerciali e con leggere differenze nella chiacchierata, diciamo, che si fanno l'alimentatore e il telefono, fatte apposta per rendere più o meno compatibili gli alimentatori in modo che ogni costruttore riesca a vendere di più dei suoi accessori originali. Però la chiacchierata sostanzialmente nel mettersi d'accordo sulla tensione che viene erogata dall'alimentatore. Ecco che il Quick Charge, per esempio, è uno standard inventato da Qualcomm, quindi moltissimi processori mobile che utilizzano Qualcomm hanno la ricarica rapida, semplicemente si alza la tensione accettata dal telefonino che va verso i 9, verso i 12 volt e riesco a caricare più velocemente il telefonino. Adesso addirittura non è solo una tensione che viene imposta all'inizio, ma c'è una continua negoziazione tra telefonino e alimentatore, aumenta un po', diminuisce un po', come se fosse un acceleratore freno, no? Quindi in funzione dello stato di carica, di quanto la batteria riesce ad accettare, viene continuamente modificata la tensione di ingresso nel telefonino. Igor, una domanda per te. Una batteria che viene ricaricata abitualmente con un processo di ricarica rapida, si usura prima? Allora, proprio in virtù di quanto ho appena detto, questo continuo interscambio e queste tecnologie che sono sempre più raffinate, quindi a sua volta il telefonino dentro ha tutta una serie di sensori che riescono a capire come sta andando il processo, e la ricarica rapida è assolutamente sicura, è fatta per far durare il telefonino quanto previsto dalla casa madre, quindi la casa madre non ti dà in mano una tecnologia che danneggia più di un tanto la vita utile della propria batteria. È evidente che a livello empirico ricarica rapida vuol dire un po' più di calore, e per quello che diceva Gianfranco prima, tendenzialmente il problema è che se la batteria si scalda un po' di più allora vive un po' di meno, c'è. Però si tiene continuamente dentro la batteria, ci sono dei sensori di temperatura che fanno in modo che la temperatura stia sempre nei limiti dell'utilizzo fisiologico. Ove mai si dovessero superare questi limiti, intanto la ricarica viene interrotta, ma in secondo luogo c'è qualcosa di patologico in quella batteria specifica, magari è uscita fuori male di fabbrica, ma normalmente non impatta in modo significativo sulla vita utile. Magari le prime versioni del Fast Charge davano un pochettino di problemi, come i primi processori scaldavano tanto, i primi fast charge scaldavano un po' di più del dovuto. Ascolta, un'altra cosa, invece quando soprattutto device Apple in questo caso rifiutano un alimentatore di terze parti, incominciano a dire accessorio non compatibile o un messaggio simile, che cosa sta succedendo? Perché succede una cosa di questo tipo? Ecco, quella è probabilmente una delle domande più difficili alle quali rispondere. Ci sono mille motivi. Apple, come al solito, ha scelto un metodo tutto suo per gestire una cosa banale come attaccare quattro cavi. Perché non c'è solo il discorso dell'interscambio di informazioni tra alimentatore e telefono, dove i due si presentano e decidono come erogare energia, diciamo, quindi teoricamente abbastanza semplice. Nel mondo Android, micro USB è tutto molto facile. Nel mondo Apple c'è anche il fatto che proprio nella testolina, quindi nel connettore del cavo, c'è un piccolo chip che va a permettere al telefono di controllare se quel cavo è autorizzato da Apple oppure no. E ci sono tanti cavi che cercano di ingannare questo sistema. A volte ci riescono, a volte no. E questa è una prima ragione per cui il cavo potrebbe, a volte, e quindi anche qui non è deterministico purtroppo, cioè non è che la prima volta lo metto e funziona, la seconda volta sono sicuro che funzioni. No, potrebbe non funzionare perché magari la password, tra virgolette, che legge il telefono, la prima volta era giusta, la seconda era sbagliata. Intendi, ma non intendi, è finita. Intendi la certificazione, quella che viene chiamata MFI, quindi MFI. Quindi cioè i cavi l'utente MFI, deve cercare che il cavo sia certificato MFI. MFI. Il cavo certificato MFI è una ottima sicurezza. Non è detto, ci sono cavi non MFI che però sono qualitativamente perfetti e funzionano molto bene, perché a volte Apple non fornisce la certificazione MFI ad accessori semplicemente perché non rispettano le linee guida sulle forme, mentre poi il cavo funziona benissimo e dentro ha il chip originale Apple. Succede, può capitare. non è finita, anche un cavo MFI potrebbe smettere di andare. Perché? Perché il connettore iPhone purtroppo non è particolarmente furbo, ha i contatti esposti, potrebbero ossidarsi, si ossidano molto facilmente, e a quel punto, dato che c'è un continuo controllo anche, si chiama dell'impedenza, che è un pochettino la resistenza che oppone il cavo alle correnti che circolano, a quel punto se il valore cambia oltre un certo limite, oppure se la tensione che vede l'iPhone cambia oltre un certo limite che è abbastanza stretto, allora viene fuori la famosa scritta accessorio non supportato. E anche un cavo originale invecchiando potrebbe ogni tanto dare problemi. Anche il connettore interno, il buco dell'iPhone dove andiamo a infilare lo spinotto, potrebbe sporcarsi dentro. Ed ecco che questa è un'altra fonte di problemi. Abbiamo visto che il connettore iPhone è una delle maggiori fonti di fastidi per l'utente dei telefonini Apple. Molto bene, adesso vi fermo perché sennò voi andate su derive, ma mi fa piacere, io ascolto con molto piacere, e devo dire che da qualche mese io e Gianfranco parliamo di questa ipotetica puntata su questo tema, e a volte io dicevo ma ci saranno cose interessanti da dire, Beh, a questo punto mi sembra di capire che potremo parlare anche per ore di questo tema. Sì, magari andiamo anche avanti, facciamo un podcast lunghissimo, non in onda ovviamente, un podcast lunghissimo sull'argomento. Allora ringrazio Igor Spinella per essere stato con noi. Igor, vienici a trovare in studio perché potremo fare una seconda puntata tra qualche mese magari su questo tema, aggiungendo anche elementi sulla ricarica wireless, magari in concomitanza con l'arrivo di iPhone 8. Assolutamente, il tema su cui tutti si stanno interrogando. Noi stessi che siamo dentro al consorzio del wireless vi garantiamo che non possiamo dire ufficialmente un bel niente, quindi dobbiamo stare a guardare come tutti. Addirittura dipendenti Apple, io ho qualcuno che conosco lì dentro, sono abbottonati o non sanno niente, perché sappiamo il mistero e il segreto che tendono a voler imporre un pochettino a tutto il mondo. Quindi stiamo a vedere che cosa succede. Grazie e a presto, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a tutti, arrivederci. E grazie anche a Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Gianfranco, a presto. Anche grazie te. Mille. Ed è tutto per questa puntata di 2024. Come sempre grazie per aver scaricato la nostra versione podcast con le nostre interviste in versione integrale. Ci risentiamo la prossima settimana. Se scegliete la nostra versione podcast, ci ritroviamo su internet oppure in onda su Radio 24 il venerdì a partire dalle 22, domenica alle 13:30. Grazie ancora per l'ascolto. Appuntamento alla prossima settimana.